Nella costa di questo spettacolo per sabato 16 novembre 2019 presso il Circolo Arci di San Lazzaro a Bologna, sala 77. Va in scena In Questioni di Cuore. Intanto buongiorno e ben arrivata sulle nostre frequenze. Grazie, buongiorno a tutti quanti. È uno spettacolo ispirato a una rubrica che di solito viene anche così presa alla leggera, però mica tanto, perché le argomentazioni sono quanto mai importanti, sono questioni di cuore. Come nasce quest'idea? Quest'idea nasce dal fatto che Questioni di Cuore è appunto la rubrica che da 30 anni, forse di più ormai, Natalia Aspesi tiene settimanalmente sul venerdì di Repubblica, appunto l'insetto settimanale di Repubblica. In occasione della festa dei 40 anni di Repubblica a Roma mi avevano chiesto appunto di partecipare leggendo alcune di queste lettere e con Natalia presente, e il successo è stato tale che abbiamo pensato di farne un piccolo spettacolo in cui avrei letto sia appunto le lettere che le risposte della signora Aspesi sono veramente straordinarie, e ne è uscito, io insomma ho remato, mi sono un po' persa nella quantità sterminata di lettere che in questi anni sono arrivate, ovviamente, che lei conserva tutte gelosamente, e ne è nato uno spettacolo di cui forse noi stessi che l'abbiamo progettato insomma insieme alla mia agenzia casa di produzione non avremmo immaginato che sarebbe stato accolto con tanto entusiasmo, perché è vero che sono questioni di cuore ma in senso anche un po' ampio, cioè si parla di problemi sentimentali ma anche problemi relazionali, problemi di solitudine, riflessioni sul senso stesso dello scrivere oggi ai giornali. Ne viene fuori una specie di viaggio in Italia, ecco, un viaggio in Italia sempre contraddistinto dalla grandissima intelligenza, ironia e capacità di scrittura di Natalia Aspesi. Sì, infatti, come ho iniziato, proseguo, non è un argomento di solito, no? E se la posta del cuore, mentre invece ci sono tanti motivi di incontro che poi non hanno età e non hanno tempo. Bravissimo, è proprio questo, non hanno neanche età, nel senso che normalmente, no, si tende a pensare che anche per motivi anagrafici la signora Aspesi, lo dico con estrema ammirazione, ha compiuto 90 anni a giugno, anche se chi la legge e non l'ha mai vista non lo immaginerebbe mai, perché è tagliente, precisa, sveglia come io ci farei non la firma ma proprio col sangue, ecco, arrivare anche molto prima con la sua lucidità, proprio perché quindi si pensa che chi scrive a questa rubrica siano persone diciamo non più giovani, no? Ed è vero, ma ci sono tantissime persone, 30, 40 anni, ma ce ne sono anche proprio di adolescenti, ecco, infatti inizio con la lettera di una ragazzina di 16 anni, fiorentina, che scrive del suo problema di cuore, di molteplici innamoramenti, e quindi è proprio così, ed è senza tempo, anche se alcune lettere sono proprio caratterizzate, per esempio le lettere di persone omosessuali, a cui Natalia tiene moltissimo perché negli anni ha tenuto una corrispondenza con loro, sicuramente cambiano cambia il tono, cambiano le cose che vengono raccontate da prima e dopo l'approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili, no? Cioè si raccontano poi altre storie, sempre con il timore dell'uscire allo scoperto, quindi ne viene fuori veramente appunto una specie di ritratto, ovviamente non esaustivo e non totale, ma da un buon punto di vista del nostro paese. Tutt'altro da sottovalutare, anzi da mettere sotto i riflettori per quanto riguarda altre argomentazioni, come la violenza sulle donne. Si facendo appunto alla passività di tante donne, ci sono molte forme di violenza che magari precedono o sono, come dire, diverse da quella fisica, da quella brutale, da quella spaventosa di cui leggiamo ogni giorno, che però sono quei condizionamenti psicologici, emotivi, di cui tante volte noi siamo complici inconsapevoli, e la straordinaria qualità di Natalia è che non giudica mai, dice quello che pensa ma con molta sobrietà, molto rispetto, a volte ovviamente facendo molto ridere, perché ci sono delle lettere che sembrano, come dicevo, me lo metto in repertorio per uno spettacolo comico, sono fantastiche, ma altre invece serie, e lei sempre appunto con questo rispetto, questa sobrietà, riesce anche a commuovere e soprattutto a far pensare senza pesantezza del mo facciamo il dibattito su questo argomento. Ecco, questo non c'è mai, c'è sempre solo una grandissima capacità di relazionarsi, e anche molte persone che scrivono veramente molto bene. Lei dice una cosa molto bella rispondendo a una lettera, dicendo che anche lei si stupisce della bellezza, timo italiano, profondità di pensiero della stragrande maggioranza delle persone che le scrivono, quindi c'è anche molta gratitudine, c'è un'ammirazione reciproca, ecco, diciamo, tra chi scrive e chi legge e risponde alle lettere. Sì, un rapporto molto forte, alla fine quello epistolare, sì. Secondo me resta qualcosa di concreto e che rimane. A proposito di qualcosa che rimane, c'è ancora tempo per la posta del cuore in un'era digitalizzata, veloce, mordi e fuggi? Ma evidentemente sì, perché le lettere, ovviamente l'unica cosa che posso dire non è che mi allargo a farne, come dire, un'analisi generale, però c'è sicuramente ancora un bisogno che forse in qualche modo l'era digitale, come diceva lei, ha persino accentuato, no? Un bisogno di confrontarsi con qualcuno, e magari nell'epoca della virtualità è qualcuno di virtuale, qualcuno che immaginiamo, qualcuno che dice di essere quella persona lì, però secondo me l'argomento dello scambiarsi impressioni, sensazioni, del bisogno di consigli, del bisogno di condivisione, credo che sia più che mai vivo. Poi si possono scegliere modi diversi per metterlo in atto, per esempio la posta del cuore di Natalia Aspesi, credo che siano diminuite in modo drastico le lettere scritte a mano, scritte a macchina, insomma le lettere postali, e sono state sostituite dalle mail, però i tempi di risposta sono sempre quelli, perché un settimanale, cioè poi ne pubblica 3 alla settimana, e comunque non sai quando uscirà e se uscirà la tua, quindi c'è qualcosa anche di fatalista in qualche modo, una specie di gioco d'azzardo, no? Nello scrivere a lei sperando di entrare nel novero di quelli che avranno una risposta. Forse la vera esigenza è quella di scrivere, quindi di comunicare, di trasmettere il peso che sia sul cuore o l'interrogativo, quello che è, conta più la domanda che la risposta. E poi alla fine l'attesa nell'amore, secondo me, è fondamentale. Assolutamente. Ed è un aspetto fondamentale. Infatti, ma l'attesa in generale, penso a come strumenti meravigliosi, io non sono certo anti-tecnologia, anzi penso che la nostra vita sia molto migliorata, però sicuramente non solo spesso ci priva del tempo dell'attesa, che può essere ansiogeno, per carità, ma ci priva anche del tempo, della possibilità di elaborare, delle volte aspettare un attimo prima di poter entrare in contatto con una persona alla quale abbiamo delle robe importanti da dire, come era una volta quando non potevi, se prima dei cellulari ci doveva arrivare un telefono fisso per telefonare, che ci fossero i gettoni o le schede o per sentire un messaggio devi tornare a casa per sentire la segreteria telefonica, a volte quel tempo lì, ecco, il tempo di elaborazione, il tempo di riflessione, non dico che fosse sempre positivo, però ti permetteva almeno di lasciar decantare, no? Oggi forse riflettiamo meno su quello che stiamo per dire e spesso i risultati sono devastanti, ma vabbè. È così. Chi dice di non aver bisogno della posta del cuore mente, ma mente soprattutto a se stesso, secondo me. Sì, magari è vero che non ha bisogno della posta del cuore, però in genere appunto credo che il bisogno di condividere faccia parte della nostra natura e credo che sia una cosa buona, perché diventa poi, come dire, ricchezza, conoscenza comune, esperienza comune. È più bello così. Certo, l'appuntamento allora è in sala 77 presso il Circolo Arci San Lazzaro, sabato 16 novembre 2019, ovviamente. Grazie a Lella Costa per essere stata con noi. Grazie a lei, grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata.